C'è un rimprovero che non è a tempo giusto, e c'è chi tace perché è sapiente. È meglio reclamare che covare la rabbia, ma chi ammette la propria colpa evita il peggio. Eunuco che brama deflorare una ragazza è chi vuole ottenere giustizia con la violenza. Chi tace sarà riconosciuto saggio, ma è odiato chi parla troppo. C'è chi tace perché non sa rispondere e c'è chi tace in attesa del tempo giusto. L'uomo saggio tace fino al tempo giusto. Il fanfarone e lo sciocco non sanno indugiare. Chi abbonda nel parlare sarà in abominio e chi è presuntuoso sarà disprezzato. Si può aver profitto dall'avversità e perdita da un colpo di fortuna. C'è generosità che non reca guadagno e c'è generosità che è ricambiata due volte. C'è chi cerca gloria e trova umiliazione e chi dall'umiliazione alza la testa. C'è chi compra molto con poco e chi lo paga sette volte. Il saggio con poco si rende amabile. I favori dello stolto si versano a vuoto. Il dono dello stolto non ti gioverà. Egli attende ricompensa con molti occhi. Dà poco e fa molte rimostranze, aprendo la sua bocca come un banditore. Oggi fa un prestito e domani lo richiede. Quest'uomo è sempre mal visto. Lo stolto dice: «Non ho amici». Non c'è gratitudine per la mia generosità. Anche quelli che mangiano il mio pane sono lingue cattive. Quanti e quante volte ridono di lui? Meglio scivolare al suolo che con la lingua, perciò la caduta dei perversi verrà presto. Dall'uomo grossolano parole fuori tempo, queste si moltiplicano in bocca agli stolti. Lo stolto che sentenzia sarà criticato perché non parla a tempo opportuno. C'è chi il bisogno trattiene dal peccare, così nel riposo e senza rimorsi. C'è chi si perde a causa della vergogna e chi si rovina per la faccia di uno stolto. C'è chi promette all'amico per vergogna, così l'avrà nemico senza motivo. La menzogna è nell'uomo macchia infame, ma abbonda sulla bocca degli stolti. Un ladro vale più d'un bugiardo incorreggibile, ma la sorte d'entrambi è la perdizione. Il vizio del bugiardo è un disonore, la vergogna sarà sempre con lui. Il saggio si attira la stima con la parola, e l'uomo di senno piacerà ai grandi. Chi lavora la terra fa crescere il suo raccolto e chi piace ai grandi trova discolpa. L'ospitalità e i doni accecano i saggi, sono museruola in bocca che frena il rimprovero. Sapienza nascosta e tesoro invisibile non sono entrambi inutili? Val più l'uomo che nasconde la stoltezza che l'uomo che nasconde la sapienza.